Eccoci qua, sani e salvi. Ma come si può intuire, e se no ve lo dico io, tra una trasmissione e l'altra è necessario, come dire, sanificare il tutto per la nostra sicurezza, e quindi ci vuole qualche minuto. Vanno via quei 5-10 minuti per rimettere un po' le cose, come dire, al loro posto. Quindi ecco qua, prove tecniche di trasmissione in onda fino alle 22:30, ma credo 22:40, 22:45 questa sera, perché non credo che ci sia 25 o'clock che ancora deve ricominciare il suo ciclo di trasmissione. Quindi vado a salutare Lupsi, Lucia Cagliazza in quel di Udine, Lucia qui a Roma, Isetual a Milano, il buon Gianluca Becuzzi qui a Roma, Sasha Rovelli a Bellinzona in Svizzera di Lucesia e Isidon, Maya e Nicola Locci dalla Sardegna, omicidio con Antonio Zovet in quel di Firenze, Iris Blu qui a Roma, Emanuele Fais dalle Marche, grande artista anche lui, Boschivo e tante tante altre cosine molto carine. Like Awake qui a Roma, Dark Ambient storico, Tabula Rasa dalle parti di Cortina d'Ampezzo, Francesco Cornello in quel di Bergamo, il medico della peste, vecchia conoscenza, peraltro domani in concerto qui a Roma, per una volta diciamo il locale, il Klang, Marco qui a Roma. Ebbene, andiamo ad iniziare, e lo facciamo con un artista che abbiamo conosciuto qualche annetto fa, inizialmente come Les Jumeaux Discordants, insieme a Roberto Del Vecchio, un ex componente dei Gotica. Poi, con la fine di quel progetto, Aima ha intrapreso una carriera solista fortunata e di valore, non disdegnando delle preziose collaborazioni come in questo caso insieme a The Illusion of Silence, un album che è uscito in settembre dal nome Music for Certain Rituals, effettivamente musica ritualistica dal profilo parareligioso, con tutta la profondità e l'esoterismo conseguente, almeno doti che trapelano dalle note che andremo ad ascoltarci. Belle collaborazioni, c'è anche Northgate tra quelli che prestano anche la voce, per cui ci ascoltiamo To the Moon, To Mars, To the Graces. dolce luce, luna divina, nene dalle corna di toro che corre di notte, ti aggiri nell'aria notturna, portatrice di fiaccole, fanciullo, bene dai begli astri, crescente e calante, femmina e maschio, splendente ami i cavalli, madre del tempo, portatrice di frutti, luminosa, triste, che gli schiari ti accendi di notte, che tutto vedi, ami la veglia, ti circondi di la notte felice, dispensatrice di grazia, porte compimento, ornamento della notte, guida degli astri, dall'ampio manto, dal moto circolare, fanciulla sapientissima. Vieni, beata, benevola dai begli astri, del tuo splendore rifulgente, salvando i tuoi nuovi supplici, fanciulla. Clesizia Basileia, Dia Selene. Era Aima and the Illusion of Silence, una azzeccatissima collaborazione tra questi due artisti per Music for Certain Rituals. Album che si ispira alla poetica e alla mitologia greca, soprattutto nella misura di Orfeo, nella figura di Orfeo. Musica sospesa, armonie volatili e fascino arcano ultragotico, elementi che insieme fanno qualità. Come altrettanto di qualità tutto il materiale composto da Aima, basta andare a vedere il suo profilo, se ne trovano 3 o 4 di lavori, tutti raccomandati dal sottoscritto. Buonasera a Eloquence Recycle di H501L Noise Cluster con Flavio Id Arianna. Un saluto a Frank Fear, musicista di area elettronico synth-pop che sentiamo di lunedì sera. Un saluto a Wurnus Eileen dal Piemonte, un pezzo di storia industrial. E a proposito di personaggi ormai storici, eccolo qua Raffaele Pezzella, immancabile devo dire dalle nostre selezioni, perché continua a sfornare dischi interessanti, anche queste compilation nello specifico. Come più sanno, sto mandando questa Balkan Region Music Survey dedicata ai Balcani nelle sue parti più nascoste. Stasera una delle migliori tracce, ritengo, dal nome Siberian Saga come il gruppo. E poi ci ascolteremo la prima traccia invece del formato solamente digitale rintracciabile su Bandcamp, ossia Catalog con Accept. Dunque, ennesimo passaggio coinvolgente estratto da questa anthology Post-Industrial Music from Balkan Region. Due artisti intensi ma per motivi opposti: l'afflato religioso di Siberian Saga, di cui non so praticamente nulla, certo la compilation viene dai Balcani, quindi presumo che il fatto che abbia letto che si ispiri alla Repubblica di Tuva probabilmente non significa che viene dall'ex Repubblica Sovietica, ma comunque l'afflato è quello, simile a Furpa, come viene giustamente menzionato da Antonio e Gianluca. Furpa, credo, russo. Salutiamo il buon Adriano qui a Roma, un grosso abbraccio a lui, fedelissimo. Per quanto riguarda Cadillac, invece, è un progetto sloveno più votato al noise e che abbiamo spesso incontrato nelle varie selezioni e album prodotti da Raffaele Pezzella attraverso la Nespresso Sounds label. Pezzella lo ritroviamo in sede di remixaggio nell'ultimo interessantissimo lavoro di Loopsy e Michael Bonaventure, una azzeccatissima collaborazione veramente importante in questo lavoro dal nome Across the Blood. I riverberi chitarristici di Loopsy, di Lucia Cagliazza, con gli organi e gli arrangiamenti elettronici di Michael Bonaventure, ricordiamo un grande artista proveniente dalla Scozia che ci sta ascoltando e che salutiamo. Quindi mi appresto a mandare Crossed Horizons, Manifestation e Fields on Fire, le prime tre tracce da questo Across the Blood. Thank you. due artisti che albergano costantemente nel mio cuore, Lucia Cagliazzi in arte Lupsi, con la sua chitarra suonata e trattata, le sue ottime composizioni, insieme a un calibro enorme che è quello di Michael Bonaventure con gli organi e i sintetizzatori vari. In questa Cross the Blood, una riuscitissima collaborazione, un album che ascolteremo anche nelle prossime settimane. Sentite qui il buon Michael che se la canta, ovviamente filtrato. Saluto Nicola Locci, Stigmat Hexagonal, di nuovo Gianluca Becuzzi. Ricordiamo tre lavori quest'anno: Voices Remix e In Between. Ottimi lavori tutti e tre, e mandati da queste parti. Peraltro mi piace pensare che questo disco di Michael Bonaventure Lupsi sia nato anche attraverso questa trasmissione, magari con il confronto tra di loro, con la conoscenza che magari si è approfondita attraverso questo programma. Ma la cosa più importante è che è venuto fuori un ottimo disco. 21:54, questa è Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, e www.ondarossa.info per quanto concerne la possibilità di ascoltarci attraverso uno streaming. Un saluto a Alessandra all'Aquila se ci sta ascoltando. C'è anche della psichedelia, del kraut rock naturalmente. Sono elementi che ritengo abbastanza presenti in questa Cross the Blood, come per esempio in molti lavori della stessa Lupsi. Saluto di nuovo dunque Lucia Cagliazza e Michael Bonaventure, lui ricordo dalla Scozia. Un abbraccio a lui, e noi andiamo avanti con un altro grosso calibro che risponde al nome di Prurient. Secondo meritatissimo passaggio per Noise for Halloween Night, un album diciamo più dilatato rispetto al passato per questo artista americano, fondatore anche della Hospital Productions. Transylvania Annihilation e Incomplete Resurrection, le due tracce di questa sera.